abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Credo che la volontà e la voglia di fare il massimo si intraveda già da parte di tutti i giocatori. Abbiamo preso coscienza, questa è la cosa più importante, siamo consapevoli e convinti che col giusto intervento, con il giusto aiuto che possiamo e dobbiamo dare ai calciatori, che facciamo innalzare le loro prestazioni. C'è un bel guardaroba, ora sto cercando, ho le idee più chiare, nel senso attraverso le esperienze, ma non stravolgeremo nulla, perché mi sembra tutto abbastanza chiaro che questa sia una squadra che può crescere, che deve crescere. È un po' di tempo che vedo la squadra che sta crescendo, che è sempre più sicura, che si sta togliendo di dosso un po' di tensioni. Io vedo la luce da un po' di tempo. Questa vittoria non ci può bastare, ci deve dare ancora più convinzione, più determinazione di portare avanti le nostre idee. Ma io sono veramente ottimista, non lo so perché, o forse perché vedo la squadra, vedo che la squadra cresce, vedo che probabilmente noi abbiamo già passato il nostro momento peggiore. Qualche difficoltà c'è stata nel percorso, anche fisica, anche per gli infortuni, ma credo che la squadra stia crescendo. Sorridevo perché, insomma, ripercorrevamo le dichiarazioni di Montella con Giorgio Druga, nostro attore, Gianmarco Ferronati in regia, negli ultimi 4 mesi, agosto, settembre, ottobre, novembre, e prima sentivo: vedrò la luce in fondo al tunnel, attento perché è un treno, mi veniva in mente questa pessima battuta. Però il treno dell'esonero è arrivato questa mattina e lo ha preso Vincenzino Montella, che dunque non è più l'allenatore del Milan, cronaca fresca appunto. Rino Gattuso, che stava allenando a Primavera Rossonera, andrà invece pro tempore, io suppongo, ma questo sarà tutto da definire, da decifrare, su quella panchina. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, come va? Extra time per Tiki Taka questa sera. Sì, tra l'altro che Tassotti stasera, ma è una cosa fatta non apposta, nessuno però, può immaginare. Botta di fortuna, mio caro. Tassotti parla di calcio a 360 gradi, ormai non ho dubbi. È impegnato con l'Ucraina, però so, è uno che conosce bene l'ambiente Milan, conosce bene Gattuso, vedremo. Conosce bene l'ambiente Milan, conosce bene Gattuso, conosce anche Montella, conosce le dinamiche di quell'ambiente adesso molto difficile da leggere. Arianna Ravelli, Corriere della Sera, ci siamo sentiti ieri, ciao. Ciao. Ciao, dunque la luce in fondo al tunnel era il treno dell'esonero per Montella. Abbiamo appreso questa notizia oggi, ma io sono curioso di sapere com'è andata, cioè la genesi di questa notizia, di questa giornata. Parlandoci chiaro, chi ha deciso l'esonero di Montella? Ma sembra che ci siano state una telefonata via l'altro, una notte di telefonate con la Cina, che la decisione sia stata presa all'alba italiana, appunto causa fuso orari cinesi, che ieri sera, ieri notte, neanche lo stesso Montella ne sapesse nulla, ma come si sa, in questo e in altri casi i diretti interessati sono sempre gli ultimi a saperlo. E quindi diciamo che il presidente cinese, la proprietà cinese, che tutti si lamentano, o comunque tutti dicono che è lontano e disinteressato, o forse addirittura non esistente in questo caso, si è fatto sentire. Poi la decisione è stata comunicata questa mattina da Mirabelli a Montella, che era Milanello. Quindi da Mirabelli, cioè Montella è arrivato lì per l'allenamento e Mirabelli gli ha detto: guarda, che non sei più tu l'allenatore. La comunicazione gliel'ha fatta Mirabelli, poi naturalmente le scelte le hanno fatte la proprietà, sì, con Fassone, e sembra che fosse da dopo la partita con la EK Atene, giocata ad Atene, quindi quello 0-0, sì, o forse uno dei più deprimenti in effetti, sì, sì, della gestione Montella, avessero cominciato a carezzare quest'idea, sempre smentita peraltro, ma insomma avessero cominciato ad accarezzare quest'idea, e poi appunto ieri, in questa notte, la decisione. È arrivata la decisione. Come valuti questo scenario, Pierluigi? Ma non c'era, io credo che la comunicazione abbia inciso un po', lo dico sinceramente, nel senso che Montella, con i suoi modi sempre molto garbati, che sono in generale una cosa positiva nella vita, non sono una brutta cosa, però ho la sensazione che a un certo punto abbia trasmesso un'idea quasi di impotenza a questa squadra e a questo ambiente. L'accettazione, non dico quasi soddisfatta perché non c'era stata la goleada, ma quasi rassegnata dalla sconfitta di Napoli, del pareggio di ieri. La nostra clip è stata perfetta da questo punto di vista. Quante volte abbiamo sentito Montella dire che la squadra sta in crescita, è in crescita, è in crescita, la crescita non c'è stata, non c'è stata, e la dimostrazione che la crescita non c'è stata è nella estrema confusione e nell'estrema variabilità delle scelte da una partita all'altra. Non ha trovato delle gerarchie, perché da questo punto di vista ha ragione, perché le gerarchie non ci sono, come per esempio invece in maniera plasticamente contraria succede nell'Inter, dove ci sono 11 titolari che sono quelli. Sì. Poi magari può essere un problema se si fa male Miranda o se viene squalificato. Vabbè. Però lì le gerarchie sono molto precise. Nel Milan ma non esiste una squadra, non esiste un 11 titolare, non esiste un modulo, non esiste un'idea di, appunto, di gerarchie di gruppo. Intanto Montella fa sapere: allenare il Milan è stato un onore, lavorare con questo gruppo ancora di più, ringrazio i tifosi per il loro sostegno, Fassone e Mirabelli per l'opportunità e il mio staff che mi ha supportato in ogni momento, auguro a Rino di riportare il Milan dove merita. Zucchero e miele, Montella se l'aspettava. Ovviamente ha un contratto in mano che quindi andrà onorato, Ventura Docet, permettetemi, e quindi se ne va senza troppi rimpianti. La sensazione è che si aspettasse questa notizia. Ieri ha avuto uno scambio di opinioni con Arianna Ravelli dicendo, e Pardo ha ragione, Arianna, non si può accettare quasi con rassegnazione la sconfitta di Napoli per come arrivate, perché non hai presi 8, non si può accettare quasi con rassegnazione dicendo che stai crescendo, 1-0-0 interno con il Torino, va bene, Skriniar sbaglia un mucchio di gol, la squadra qualcosa produce, eccetera eccetera, però alla fine guardi i risultati, prendi la schedule del campionato e ti rendi conto che il Milan non vince in casa dal 20 di settembre, il che non è esattamente accettabile con il treno della Champions League che è già scappato via. Sì, ma questo l'abbiamo detto ieri, è chiaro che, cioè, se poi mi chiedete se per me hanno fatto bene o male ad esonerarlo, io non penso, che continuo a pensare che abbiano fatto male, soprattutto per la tempistica, perché se c'erano dei dubbi, visto che tutti questi problemi erano già emersi, se si voleva cacciare Montella si poteva farlo prima, 2 mesi fa, quando soprattutto durante l'ultima sosta. Sì. E quello secondo me poteva essere il momento giusto. Cacciarlo adesso, quando appunto, come dici tu, il treno della Champions è scappato, però bisogna tenere quello dell'Europa League, e bisogna tenerlo non perché sennò si perde la faccia o si perde, ma perché è previsto in un business plan, che stanno valutando, sì, anche i finanziatori. Sì, sì. Quindi in questo momento fare questa scelta soprattutto per la tempistica, e poi perché comunque adesso è facile ironizzare e i risultati non ci sono stati, ma invece secondo me la squadra poteva crescere e soprattutto adesso ha davanti un percorso veramente in discesa, e forse è stato fatto anche per questo, per fare iniziare il nuovo allenatore in un modo morbido, come dire, più soft e più morbido. E per ultima cosa, perché la responsabilità non sono anche della società, la quale in questo modo tutela le proprie scelte sul mercato, ma forse anche le scelte sul mercato bisogna cominciare a questo punto a metterle in discussione, per tutte queste ragioni io non sono poi così convinta che sia la scelta migliore. Questo però è diverso da dire che Montella non ha alcuna responsabilità. No, chiaro, attenzione, io condivido che Montella, e l'abbiamo parlato anche ieri, ha delle responsabilità, e perché a questo punto del campionato era logico e doveroso aspettarsi più certezze, più giochi, più idee, più una quadra già trovata, per sintetizzare con una frase un po' fatta, ma perché rende l'idea. Questa quadra non c'è, o comunque aveva ancora bisogno di molti aggiustamenti, evidentemente. Quindi Montella ha quelle responsabilità. Poi la partita col Torino per me è una partita in cui Montella non ha particolari responsabilità, perché no, se gli attaccanti sbagliano tutto lo sbagliabile, non è colpa di Montella. Detto questo, ha delle responsabilità. Se fosse la scelta migliore, scusa, vai. No, no, dico, se poi, quindi Montella ha delle responsabilità, se poi fosse la scelta migliore, no, per questo la squadra non, e non per si la può, società, no, no, non si può dire, ma non lo è mai, Arianna, non lo è mai a fine novembre per una squadra che ambisce ad essere grande perché si chiama Milan, mandare via un allenatore è una sconfitta per tutti, no? È come quando si distrugge un matrimonio, è una sconfitta di tutti, quindi è evidente che la scelta è una soltanto un'estrema razio, poi possiamo discutere appunto sulla tempistica, però sappiamo che nel calcio paghi i risultati, e i risultati sono questi. Arianna, io ti ringrazio, ti abbraccio, grazie davvero. Grazie per essere stata con noi. Ciao, dunque abbiamo chiarito bene, capito bene lo scenario. No, il timing, ha ragione Arianna, il timing è abbastanza strano, anche perché così come non c'è stata sicuramente una accelerazione in positivo e una crescita di questa squadra, perché non c'è stata, perché la Liga Montella non c'è stata nemmeno una pressione. No, Pier, è stato una sorta di piano inclinato, no? Ieri è il Milan di sempre. Chiaro, appunto, è una sorta di piano inclinato su cui il Milan e Montella si sono imbarcati e sono arrivati giù fino a una conclusione che mi sembra quasi tristemente fisiologica. Ci fermiamo un attimo per il traffico, poi c'è Tony della provincia di Belluno, ma aspettiamo anche un ospite con cui ci divertiremo. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. Tutti convocati. Dunque Tony, provincia di Belluno, buongiorno, 800240024 è il numero verde, dica. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, grazie. Siete due top play della radio. Sì. Io volevo dire qualcosa sul signor Fassone, no? Perché tutti gli danno la colpa a Montella, che non ha nessuna colpa, perché se un allenatore li cambia 11 giocatori, come fa a preparare una squadra per essere competitiva? Cioè, Fassone è andato alla Juve, ha fatto disastri, è arrivato Marotta, ha fatto quel che ha fatto, poi è arrivato all'Inter, ha speso soldi e non ha fatto niente. Sì, beh, bisogna adesso distinguere. Adesso è la stessa roba. Guardi, Tony, non, per difendere nessuno, però i ruoli non sono esattamente quelli, cioè Fassone non è comunque quello che fa il mercato, non è il direttore sportivo, ha avuto un cursus attraversando Juventus, Inter e Napoli, ovviamente con alterni risultati, ma è un manager, non è esattamente un uomo più amministrativo campo, bravo, che tecnico. Più amministrativo che tecnico. E, tra l'altro credo che nella situazione del prestito e delle garanzie per il Milan abbia avuto un ruolo invece importantissimo, nel senso che ricorderete la lunghissima impasse, da quello che mi risulta ha praticamente sbloccata lui. Sì, sì, detto questo non stiamo difendendo nessuno. Bravo, esatto. Però mi sembra anche un po' generoso dire questo. Guarda, si tratta soltanto di fare chiarezza a onor di cronaca e per il mestiere che facciamo. A proposito di mestiere che facciamo, ci sono non solo bilanci, esoneri, eccetera, ma anche dei momenti che nella domenica abbiamo vissuto calcistici, che abbiamo vissuto estremamente importanti come questo. Ancora un tentativo per la squadra di Grosso, Floro Flores, ancora Brienza, si prova con il sinistro, invece un grande passaggio per Floro Flores, il tocco dentro, Galano! Il gol di Galano che non esulta, il foggiano Galano che fa gol al Foggia, incredibile, esplode. Primo chiamato mio amico Franco Ordine, perché sono una carogna, gli ho detto buongiorno Ciccio, sono Galano. Buongiorno. Capisco, guarda, l'accanimento nei miei confronti. No, l'accanimento nei miei confronti. Io però mi sono consolato, sai come? Mi sono consolato al pensiero che solo un foggiano poteva batterci. Magra consolazione, dai, adesso. Mi sembri quelli che fanno gol e non esultano. Cosa che non mi piace, bella, quasi da striscione. Esatto. Ho lanciato un hashtag nella mia chat con gli altri amici che condividono con me la stessa passione. Chi è sto chat? Comunque, vabbè. Sto cercando di parlare del barese. Cosa hai detto? Traduci, traslate. Ho detto, cos'è questa chat? Chi è sta chat? è un modo per stare tutti insieme, ma per condividere alcuni messaggi. Va bene. Sentilo com'è, però. Com'è triste, com'è malinconico. Malinconico. Quasi crepuscolare, Franco Ordi, ma lo perdoniamo, perché insomma io l'avevo già detto, no? L'avevo già anticipato, guarda, non pensare di scamparla, anche se c'è l'esonero di Montella, non pensare di scamparla, Ciccio. Quindi. Senti, invece, sto altro rossonero che conosci molto bene, sto esonero, tu come lo leggi, lo valuti, ma da, guarda, insomma, giornalista di lungo corso, di grande conoscenza? Ma io lo leggo e lo valuto così. In sostanza è un po' tardivo, nel senso che se solitamente gli esoneri vengono fatti perché si ha la sensazione, se non addirittura la certezza, di poter in qualche modo incidere o comunque modificare il vento e il cambiamento di una squadra. In questo caso, secondo me, avviene un po' troppo tardi rispetto alle vere esigenze della classifica, perché in questo momento obiettivamente il Milan è a anni luce rispetto alla posizione del quarto posto del quale parlava lo stesso Montella, per cui da questo punto di vista è tardivo. C'è Gattuso, obiettivamente è la soluzione che era stata già preannunciata largamente quando è arrivato Gattuso a dirigere la primavera, e quindi insomma devo dire francamente che insomma, la considero proprio il cerotto applicato su una ferita molto grande. È una ferita che riguarda soprattutto il mercato, le scelte del mercato e la cifra tecnica delle scelte del mercato. Sì, quindi grande sul banco degli imputati il mercato, che è stato con così tanti soldi condotto. Montella che responsabilità ce l'ha? Poi ripeto, stiamo a discutere di tempi, indietro non si può tornare, era una sorta di piano inclinato che era destinato a finire così, questo è il riassunto delle cose. Cosimo Bergamo, buongiorno, così aggiungiamo un po' di pancia agli ascoltatori, dica. Buongiorno, sì, sono d'accordo con il signore che ho sentito poco Franco fa. Ordine. Franco Ordine, sì. Praticamente la notizia l'ho appresa per caso, perché per motivi di lavoro, insomma, mezz'ora fa. Resto senza parole. Due motivi. Montella è stato in grado di riportare il Milan in Europa League dopo anni di grigiore, con una squadra insomma che non era neanche valida, insomma, nessuno avrebbe pensato all'inizio del campionato. Gli sono stati cambiati 11 calciatori. La squadra, lo si è visto ieri ancora una volta, ha prodotto non so quante azioni da gol, quante azioni da rete, che diversi calciatori insomma hanno fallito, cioè non credo per colpa di Montella. Cioè, dopo una partita del genere esonerare un allenatore ho capito, è sconvolgente per... Sì, Cosimo, capisco, però si rende conto anche della tristezza per i Milan e i tifosi del Milan dire l'anno scorso, beh, miracolo che siamo arrivati in Europa League, e aggiungo quest'anno a dire, ne parlavamo prima con Arianna Ravelli, nel business plan del Milan è prevista quantomeno l'Europa League. Vi rendete conto che anche a fronte dei soldi sono stati spesi, tutto questo è estremamente imbarazzante, devo dire, o triste se preferite. Michele, poi continuiamo con Pardo e Ordine. Michele, dica. Sì, buongiorno, volevo fare i complimenti della trasmissione. Sì, grazie. No, io mi associo a quanto ha detto chi mi è preceduto. Io però volevo, secondo me bisognerebbe anche intervenire sui giocatori, perché Montella, sì, ormai l'abbiamo visto tutti ieri, 7-8 palle nitide davanti alla porta, hanno sbagliato, cioè i calciatori, dobbiamo intervenire, anche avere il coraggio, lo succederà, avere il coraggio di intervenire sui calciatori e dire: bene ragazzi, questa è la vostra responsabilità, non avete fatto il vostro dovere, vi tagliamo qualcosa anche a voi. Perché sempre esclusivamente all'allenatore e quant'altro? Perché dire. Michele, sì, in linea di principio funziona, non funziona in linea di massima, secondo le massime calcistiche. Pardo, Ordine, ditemi. Sì, non funziona perché pagano sempre soltanto gli allenatori. Devo dire che sul conto di Montella va messo anche questo ragionamento, e cioè vi ricordate come è stato accolto Di Francesco a Roma? Allora, nuovo allenatore, senza credito, con una squadra completamente nuova che tra l'altro aveva venduto alcuni pezzi pregiati, i primi tempi grande difficoltà, poi dopo un certo periodo che è naturale, che è inevitabile, di adattamento, per metabolizzare i cambiamenti. La Roma ha cominciato a giocare il calcio che voleva Di Francesco e che ci sta dando dei grandi risultati. Ora, obiettivamente, il viaggio di Montella quest'anno è cominciato dai primi di luglio, siamo a fine novembre, ha impiegato troppo tempo senza riuscire a risolvere nemmeno uno dei tanti problemi. Sì, questo è scritto nei fatti, per quello che io dico, Pierluigi, l'abbiamo detto un sacco di volte, è vero, tutta la squadra rivoluzionata a mercato nuovo, però è un discorso che abbiamo praticato per l'Inter di Spalletti. Perché non scegliere una via, una sola via, riguarda il modulo, riguarda i giocatori, provare a consolidare le idee che hai, tanto la china è quella. Sì, sì, ma ne parlavi tu ieri, devo dire la verità, io non so dirti quanto sia una causa e quanto sia una conseguenza del problema questo, mi spiego meglio, io non so dirti se lui non ha trovato, cambiava continuamente formazione, perché cioè, secondo me lui cambiava continuamente formazione perché non c'era una formazione all'altezza. Tu hai ragione, probabilmente avrebbe dovuto proseguire, però è pure vero che tante volte il campo ha smentito le certezze. La partita del Milan aveva cominciato bene, abbastanza bene, poi ci fu la sconfitta all'Olimpico che sembrò cambiare le gerarchie, perché i Cutrone, per intenderci, diciamo quelli un po' più outsider, sembravano in difficoltà e ha abbracciato un'altra strada. André Silva abbiamo visto praticamente soltanto in Europa League e non si può dire che abbia fatto male lì, poi in campionato non l'abbiamo praticamente mai visto, non lo so, io... Noti che qualche incoerenza c'è, no? La fase offensiva è imbarazzante. Scusami, su questo argomento devo dire che le colpe di Montella sono relative, nel senso che facendo tutte quelle partite è evidente che non poteva giocare sempre con la stessa squadra. Da un certo punto di vista, dall'altro punto di vista c'è stato una serie di cambiamenti, perché il 4-3-3 era figlio della scorsa stagione, poi è arrivato all'improvviso e non era previsto Bonucci, che ha imposto il cambiamento di sistema di gioco per giocare a tre, e quindi da lì poi nascono tutte le altre difficoltà, il fatto di dover in qualche modo adattare alcuni giocatori a ruoli che non avevano mai ricoperto in precedenza. Quindi queste sono le, diciamo tra virgolette, le giustificazioni sui ritardi di Montella, ma puoi ritardare una settimana, due, tre, quattro, un mese, ok, poi se obiettivamente arrivare a fine novembre senza avere una sola sicurezza, una sola certezza, se non quella dell'anno scorso, cioè Montolivo, Donnarumma, Romagnoli, Zapata, questi sono Buonaventura e questi sono, questo è evidente. Grazie Ciccio. Salve. Riprenditi, mi raccomando. Michele da Napoli, buongiorno. Salve, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Dica. Riguardo al Milan, al cambio di allenatore, onestamente io credo che sia una scelta folle, nel senso che il Milan è una squadra con giocatori discreti. E questa confusione di Montella nasce dal fatto che non ci sono sicurezze, perché non ci sono top player in questa squadra. Quindi più che cambiare l'allenatore, che secondo me ha delle colpe, ma fino a un certo punto i dirigenti sono da condannare, insomma. Sì. E soprattutto poi la scelta di Gattuso non... era quasi, Michele, era quasi obbligata in questo momento della stagione, poi sarà anche da discutere, da capire in funzione di che cosa, cioè Gattuso guiderà questo traghetto che fa da tutte le parti, è un traghettatore, è un uomo su cui si punta, cosa su cui ho dei dubbi, dipenderà dai risultati, boh, questo è ancora in divenire, questo nessuno lo sa. Ci fermiamo un attimo per la borsa, poi con Pierluigi Pardo, i nostri ospiti, i nostri ascoltatori, continuiamo. 800 24 00 24. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20, manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Può partire Jorginho. La finta, la parata di Scuffetta, che è sfortunato. palla che resta lì e Jorginho porta in vantaggio il Napoli al 33esimo minuto. Partita a questo punto della stagione può dire pochissimo per quanto riguarda la classifica, ma è una partita a cui i nostri tifosi tengono tantissimo e noi abbiamo l'obbligo di tirare fuori una partita in cui diamo il 110%. Vede, il tiro, allarga a destra, Barzagli si inserisce, va alla cross verso Mandzukic. La Juve sblocca il risultato alla 6° minuto. Contro Napoli sono state sempre partite molto bloccate. Ora magari venerdì non succederà, però le partite di campionato sono rimaste abbastanza bloccate, vedremo. Noi l'obiettivo nostro, visto che il campionato è stato molto difficile da vincere, soprattutto arrivare a marzo, come ho detto prima e come continuo a dire, attaccati alle prime, perché Napoli ha perso 4 punti, è una roba straordinaria. Non di solo Milan e Montella vive il lunedì di questa giornata, di questa settimana di campionato, perché ci sono ovviamente anche altri temi attraverso i quali vale la pena passare in attesa di Napoli-Juventus. C'è un'altra notizia del lunedì, cioè Higuain non sarà della partitissima di venerdì sera perché deve essere operato ad una mano, dunque probabilmente la Juventus a metà carpo, la Juventus che abbiamo visto in riserva con Crotone sarà quella grosso modo che giocherà al San Paolo con il Napoli in quella che è facile definire, anche se fuorviante, sfida scudetto, perché a fine novembre di sfide scudetto io ne ho viste poche. Aldo Serena, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Come stai? Tutto bene, tutto bene. Pescettino l'altra sera a Cagliari, Seratona a Cagliari, non entro nei dettagli, ragazzi. No, poi siamo andati a una festa, ma Aldo non è venuto, ma ha fatto ovviamente, aveva ragione lui. Non è venuto. Ma non c'erano dubbi. Perché non sei andato? Aldone. Avevo l'aereo abbastanza presto il giorno dopo. Avevi bisogno di sonno, va bene, ho capito. Senti, ha vinto lui. Di Montella e del Milan ti chiedo dopo. Invece ti vorrei chiedere di questa giornata di campionato. Allora, come piace dire al mio compagno di banco, a mio fratello di microfono Pardo, il dato politico di questa domenica è che il Napoli vince di rigorino facendo fatica a Udine, una partita che ormai siamo abituati a vedere in questa nuova edizione del Napoli. La Juventus mena la palla e mena il torrone fino a quando non riesce a battere il Crotone con un possesso palla imbarazzante, ma queste sono storie di sto campionato. La Roma paga la follia di De Rossi e l'Inter non molla niente. Esatto, bella fotografia, ma venerdì ci sarà super incontro Napoli-Juventus, due squadre che fino ad ora forse non hanno più la Juventus dato il meglio di sé. Il Napoli sì, per certi versi, ora sta pagando un po' una condizione di affaticamento di alcuni elementi, soprattutto quei giocatori d'attacco non ha alternative Sarri, e questo è grave, insomma, per una squadra che ha velleità di vincere scudetto, di andare in avanti in Champions, non avere alternative a quei tre giocatori d'attacco diventa un problema, perché Giaccherini ormai mi sembra proprio dimenticato. Unas anche ha avuto poco spazio, per cui alternative lì non ne ha Sarri, e Mertens mi sembra un po' faticato, ecco. Quindi Pier, trovi anche tu che Napoli abbia un po' la lingua fuori in questo scorcio di campionato? No, io non capisco niente, sono il Napoli, io mi ricordo un anno fa noi dicevamo, anch'io dicevo, il Napoli deve imparare a vincere le partite in cui non brilla, e il Napoli è diventato un fenomeno nel vincere le partite in cui non brilla, e adesso siamo qui e diciamo però il Napoli non brilla. Non lo so, io ho la sensazione, in questa giornata di campionato ha vinto la Juve ed era 0-0 alla fine del primo tempo col Crotone ed era una notizia. L'Inter, che a Cagliari ha faticato, l'abbiamo commentata dalla prima mezz'ora certamente, e devo dirti la verità, però onestamente l'Inter mi ha dato la sensazione, ne parlavamo anche l'altra sera a cena con Aldo, di poter essere veramente da scudetto, pronuncio questa parola, perché sì, ti ha fatto cambiare opinione, ce lo dice sì, ieri decisamente. E il Napoli sta facendo il suo, sta a Udine, vince la partita e... che deve fare di più? Che vuoi di più della vita? No, cioè, è ovvio che non è il miglior Napoli dell'anno, cioè tutto quello che vogliamo, però trovo che sia un segno di enorme salute vincere le partite quando non brilli, anche perché cominciano a essere parecchie le partite che il Napoli ha vinto senza brillare. Però dovrà brillare per battere la Juve, ragazzi. Quella sarà la cartina tornasole del momento del Napoli. Vediamo, certo, sì, però anche la Juve non è che sia in un momento. No, è chiaro, l'abbiamo vista ieri sera ancora e non avrà Higuain. Tu sai, Pierluigi, la domanda che ho sulla punta della lingua da fare a un grande ex attaccante, vero? Palla. Posso? Me lo concedi? Signor Aldo Serena, ma secondo lei Mauro Icardi, ex signor Bandanara, adesso si è preso il titolo dei bomber, quindi non lo chiamo più così, anche se mi divertiva, vale il podio degli attaccanti mondiali in questo momento? È sul podio dei primi tre attaccanti, dico prime punte del mondo? Ecco, diciamo, sta per arrivare fra i grandissimi. Sta per arrivare perché in aree di rigore non ha nulla da imparare. È un professore già collaudato lì, proprio lui sa già far tutto. Però ecco, per diventare fra i migliori deve fare anche cose diverse. Nella fase di non possesso deve essere un leader. E piano piano, secondo me, soprattutto quest'anno con Spalletti che lo ha responsabilizzato, ho visto una disposizione proprio al sacrificio diversa dagli anni scorsi. Nel momento in cui impara anche tatticamente e diventa pure leader, Pierluigi, vabbè, allora sul gradino più alto del podio c'è lui, perché a quel punto lì che gli manca. Sì, a me Icardi io l'ho pronosticato come capocannoniere del campionato all'inizio della stagione. E quindi penso, rivendichi, va bene. Rivendico e penso, vabbè, a parte che stiamo parlando di lunedì mattina, tu sai com'è andata la schedina, no? Cioè, vogliamo parlare di questa cosa qui? Stavo vincendo di uno con Capuano. Di uno, cioè era in vantaggio di un voto. Atalanta-Benevento. No, aspetta, per Atalanta-Benevento tutti e due abbiamo messo uno, quindi era inutile, così come è inutile Juve Crotone. Era avanti di uno, Lazio-Fiorentina, io ho messo uno, lui X, praticamente ha pareggiato e si è salvato grazie a un calcio di rigore al 94esimo. C'è tutta la sintesi della stagione, ma c'è soprattutto tutta la sintesi di Capuano, perché non è la prima volta che fa queste cose. Comunque, Il calcio è liquido, no? Ma lui è proprio solido, questo è proprio solido. Vabbè, comunque, chiusa la parentesi, no, non rivendico, cioè per Icardi è l'attaccante, il cannoniere, il giocatore che da solo trascina la squadra, che magari devi sonnecchiare per 60 minuti ma che poi ti colpisce sempre. La sensazione è che sei in un momento incredibile, cioè mi sembra che nella sua stagione, nella sua carriera, questo sia il momento di massima maturazione. Poi sappiamo che per gli attaccanti le cose cambiano. Io commentavo Chelsea-Roma con quella partita incredibile di Dzeko, mi ricordo l'intervista del post-gara, e poi non segna da quel giorno. Quindi poi sappiamo che questo può cambiare da un momento all'altro, però Icardi è veramente un giocatore. L'Inter ha questa cosa abbastanza curiosa, che ha un grande attaccante, un grande portiere e un grande allenatore. Sai, quando hai l'interagliatura solida, anche due esterni d'attacco che giocano in maniera funzionale ai Icardi. E quindi io arrivo alla conclusione con il signor Aldo Serena, cioè quello che manca al Milan è un attaccante che la sbatte dentro e magari anche un... Beh, portiere tenta di averlo, in prospettive nel futuro va bene, Perisic ad esempio, secondo me il Milan non ce l'ha, detto questo ha quasi tutto il resto, no? Non ha l'allenatore, non ha il centravanti, non ha i grandi esterni, ha un grande portiere, per il resto tutto bene. Aldo. La fila dorsale sarebbe dovuta essere proprio quella, Donnarumma, Bonucci, Ilia e un attaccante Kalinic di riferimento, ecco. Sono un po' mancati, a parte Donnarumma, tutti gli altri, perché fino ad ora hanno dato molto meno di quello che sono le loro possibilità. E il fatto di andare adesso ancora su un allenatore giovane, nuovo come Gattuso, dopo le esperienze di Seedorf, dopo Inzaghi, dopo Brocchi, io penso che sia un po' un azzardo. Io sarei andato su un allenatore, un traghettatore esperto del campionato italiano, che conoscesse tutte le problematiche, tutte le storture anche che ci sono in uno spogliatoio di alto livello quando le cose vanno male. Tipo? Guidolin. Sì, questa è un'ipotesi interessante. Resta comunque il pilota di un traghetto che fa acqua, non è una scelta strutturale. Ma a questo punto non può essere una scelta strutturale, perché anche lì traghetto che fa acqua e viaggia nella nebbia. Per il resto tutto bene, ripeto, tutto bene. Aldo, grazie, un abbraccio. Buon pomeriggio a tutti voi. Ciao Aldone. Sì, allora, ultimo traffico, torniamo. stata davvero eccitante. Piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Dunque, ecco, torniamo per la rush finale di questo lunedì che ha visto appunto il Milan esonerare Montella e prendere Gattuso al suo posto, che ci ha portato ai commenti che stiamo facendo ora sulla domenica di campionato e ad aspettare con sempre maggiore così voglia la partitissima di venerdì sera. Giovanni da Milano, buonasera, buongiorno, anzi. Buongiorno. Dica. Io sono d'accordo sul fatto di esonerare Montella. Io non l'avrei neanche confermato, visto come era finito lo scorso campionato. Se ci ricordiamo, lui si è qualificato per incapacità degli altri, perché nell'ultimo periodo del campionato punti ne ha fatti veramente pochi. Perciò aveva già dimostrato una carenza, cosa aveva già dimostrato anche con la Sampdoria. Ricordiamoci, sì, che la Roma non l'ha confermato perché voleva 10 giocatori nuovi. A questo punto non è che abbia un background notevole. Beh, insomma, Fiorentina ha fatto buone stagioni, non ha mai guidato una squadra da scudetto, da altissimi piani, e questo lo sappiamo. Ha avuto una stagione molto grigia alla Sampdoria, probabilmente anche con insomma, sbagliando ad accettare quel ruolo e quella panchina, e al Milan è andata come è andata. Poi tornare indietro non avrei neanche confermato, sì, è una considerazione che ci può stare. Io voglio chiedere, mentre Pierluigi parla ovviamente con noi, all'avvocato Mario Ielpo, che saluto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dato che ieri stavo parlando delle sue imprese tennistiche con un suo amico che si chiama Costa Curta e con il mio amico Meloccaro, come va il tennis? No, con Meloccaro benissimo, perché lo batto sempre, quindi, però ieri non c'era e quindi è andata male. Aspetta che lo chiamo, Mario, aspetta un attimo. No, però mi ha confidato, adesso non dirlo a nessuno, che in doppio tu giochi spesso con Maldini, no? Sì, sei compagno, sì. Ma ha detto che sei leggermente meglio di Paolo. Sono più doppista, Paolo si sta bene, è molto più forte di me fisicamente, perché come ho detto più volte Paolo è stato il giocatore bianco con cui ho giocato più forte fisicamente che ho visto, quindi perché i neri sono di un altro pianeta, quindi non si possono mettere nella stessa... Nella stessa categoria. No? Vabbè, allora ti mando con Pierluigi a giocare a golf, Pier? Eh sì, ma io gioco volentieri. Lì sono scarso. Ma lì è tutta tecnica, lì è tutta tecnica. Ma io infatti organizzo gli incontri per Pardo, quindi poi ci scommettiamo sopra, quindi faccio il Don King della situazione. No, dica che stava di Pardo? No, niente, stavo ascoltando, facciamolo intervenire. No, appunto, andiamo a bomba, non cazzeggiamo più sul tennis. Dunque, via Montella dentro Gattuso, caro Mario Ielpo, che ne pensi? Gli ascoltatori dicono, ha ragione, non ha ragione, il Milan. A me sembra, ripeto prima, che si navighi a vista. Sì, questo sicuramente. Il problema è che ieri ero allo stadio, la partita non è stata bella, ma soprattutto... l'umore dei tifosi del Milan dava l'impressione di aver raggiunto ormai il colmo per quanto riguarda la sopportazione di questo tipo di gioco della squadra, no? A prescindere poi da chi sia allenatore, però una squadra sempre mai pugnace, direi, ecco, questo è quello che si è visto da molte partite a questa parte, sempre confusa per quanto riguarda così il modo di interpretare la partita, e quindi alla fine penso che la società, qualsiasi società, ecco, anche una che non navighi a vista, dovrà un po' prendere questa decisione. Sì. Sapete perché l'ho detto? Che io non sono un fan del gioco di Montella, che apprezzo invece moltissimo per altre qualità, nel senso che è stato bravissimo a tenere il gruppo in situazioni difficili, perché almeno ha navigato in acque difficili, lui su questo è stato bravissimo. Senti Pierluigi, ma dando un'occhiata al futuro, come immagini lo scenario di lungo corso? Perché io non ne ho la più pallida idea, cioè adesso arriva Gattuso, poi che succede? Poi dipenderà anche da che farà Gattuso, nel senso che comunque... Cioè, secondo te dipenderà da come che farà Gattuso? Beh, se dovesse fare delle cose clamorose, dipenderà molto dai budget che avrà il Milan l'anno prossimo. È chiaro che Conte è una suggestione interessante. Io Oh, ci credo, nel senso che comunque che Conte possa avere voglia di tornare in Italia e possa desiderare una grande rivincita e un'avventura molto stimolante, io conoscendolo un po' non la vedo un'ipotesi così assurda. È chiaro pure che però dipende molto da che tipo di scenario ci sarà dal punto di vista economico, prima ancora, no? Che budget ci sarà, perché quest'anno il Milan, l'abbiamo detto mille volte, ha fatto l'in, cioè ha fatto una serie di investimenti per stessa ammissione dei dirigenti rossoneri molto, molto forti, molto grandi, per cercare di accorciare i tempi, e le cose non stanno andando come preventivato. No, quindi infatti, lo stesso Fassone ha parlato di un piano B in caso di mancata conquista della Champions, che mi sembra ad oggi un'ipotesi molto probabile. Ho capito, però ma verrebbe, lo chiedo a Mario Greppo prima di salutarlo, Conte con orizzonti limitati? Cioè lui sappiamo che è un allenatore abituato ad arrivare, ma ti chiede quello che vuole, se no succede come anche quest'anno al Chelsea, un po' s'arrabbia. Quindi verrebbe ad un Milan con un orizzonte a ribasso? Ma non lo so, perché lui è sempre stato una delle grandi sfide di ricostruzione, no? Quindi qui c'è da ricostruire sicuramente, quindi potrebbe essere la sua piazza. Quello che un po' secondo me potrebbe farlo, come dire, tentennare, a prescindere insomma da eventuali investimenti su giocatori di sua preferenza, che potrebbero essere difficili visto quello che avete appena detto. Mi sembra che insomma la rosa del Milan non sia, come dire, subito compatibile con il gioco del calcio fatto di verticalizzazione, aggressività e quant'altro di Conte, quindi avrebbe bisogno, a prescindere insomma dai numeri, di ricambiare nuovamente verso un altro stile di sì, gioco sì. E quindi insomma lì bisognerebbe che Milan mettesse mano, se non a portafoglio, comunque a una politica di scambi importante. Però mi sembra che ci siano troppe incognite, troppe variabili. Esatto. Dove arriva il Milan? È il piano A o il piano B? Il piano A lo scartiamo, vediamo il piano B e poi vediamo che va Gattuso e poi continuiamo a navigare a vista nella nebbia. Mario, grazie. Grazie a voi. Ciao, un abbraccio. Ciao. Con che ci trasturi stasera, Bardo, a Tiki-Taka? No? Ferri, c'è Koulibaly collegato, ci saranno i collegamenti con gli Oscar del calcio dove parleranno in tanti e poi ovviamente insomma i nostri opinionisti abituali, tradizionali. Guarda, stamattina sembrava quasi un lunedì moscio, sembrava, no? Però ci siamo svegliati. Poi insomma, fra la notizia di Montella e anche questa esclusione praticamente certa di Higuaín da Napoli Juve, poi c'è il caso De Rossi, insomma, il lunedì ha preso un altro colore. Infatti è un peccato che adesso si debba chiudere, perché altri temi, insomma, li svilupperemo nei prossimi giorni. Come diceva qualcuno, il tempo è tiranno. Ebbene sì, signori, il tempo è tiranno, anche per tutti i convocati. Ma vi aspetto domani alle 14. Grazie ovviamente per Luigi Pardo, Giorgio Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia. Ci sentiamo domani alle 2. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.